Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, di tutti i leaks che abbiamo visto, Vatican Leaks, Wikileaks, ci mancava l'offshore leaks, ossia un'inchiesta addirittura definita dai giornalisti francesi uno scandalo fiscale planetario che coinvolgerebbe migliaia di persone in tutto il mondo e che andrebbe a colpire i conti esteri. È nata e ha avuto eco in Francia per i conti all'estero di alcuni politici francesi. In realtà ci stanno lavorando addirittura 86 giornalisti di 37 state americane ed europee e ci sarebbero oltre 100.000 a livello mondiale le persone coinvolte. Li chiamano super ricchi che hanno usato strutture offshore, quindi paradisi fiscali, per possedere ville, yacht, capolavori artistici e altri beni, guadagnando vantaggi fiscali nell'anonimato non disponibile per la gente comune. Si tratta di funzionari governativi e anche dei familiari di Azerbaigian, Russia, Canada, Pakistan, Filippine, Thailandia, Canada, Mongolia e altri paesi. Vi sarebbero anche 200 italiani in questo database sull'evasione planetaria, appunto. Ed è realizzata questa inchiesta da 38 testate mondiali, 38 giornali o settimanali o periodici mondiali che si riuniscono nell'International Consortium of Investigative Journalists. Dicevo, anche 200 italiani, tra questi scrive Settimanale Espresso, che è il partner italiano di questa iniziativa, anche Gaetano Terrina, all'epoca commercialista dello studio Tremonti, Fabio Ghioni, hacker che ebbe un ruolo di primo piano nello scandalo Telecom, i commercialisti milanesi Oreste e Carlo Severgnini, che hanno incarichi professionali nei più importanti gruppi italiani e quant'altro. Vedremo, però quello che è chiaro è che in Francia sta già creando uno tsunami perché ha coinvolto direttamente alcuni politici, non solo il ministro ma anche un consigliere di Hollande. Di questo parleremo. Tra l'altro, molti grandi banche hanno incluse UBS, Credit Suisse e Deutsche Bank, hanno lavorato aggressivamente per fornire ai propri clienti compagnie coperte dal segreto alle Virgin Islands e in altri paradisi fiscali. UBS avrebbe creato 2.900 società di comodo, mentre Credit Suisse almeno 700, e rischia di essere veramente una palla di neve che si sta già trasformando in una slavina. Lo dico anche perché noi ogni tanto parliamo di paradisi offshore che vogliono dire 21.000 miliardi di dollari. 21.000 miliardi di dollari. Sapete quanto vuol dire in proporzione il PIL di un anno di Giappone e Stati Uniti, cioè del numero uno e numero due o tre al mondo. Ecco, questo è quello che è detenuto nei paradisi fiscali. Lo diceva, era il racconto e l'analisi dell'ultimo rapporto Tax Justice Network. E pensate che di questi 21.000 miliardi di dollari, 7.000 miliardi apparterrebbero allo 0,01% più ricco del mondo, circa 90.000 persone. E sempre il rapporto Tax Justice Network individuava come nel 2010 la sola banca svizzera UBS avesse contribuito ad occultare nei paradisi fiscali offshore 1.350 miliardi di dollari. 500 miliardi invece li avrebbe occultati il Credit Suisse, 166 miliardi Goldman Sachs. Allora, mettiamola così, pagare le tasse è un obbligo ed è giusto che lo Stato però paghi i suoi fornitori, e qui torniamo al tema che cavalcheremo anche domani. Non si capisce perché, o meglio si capisce, ma non è accettabile che per un'elite molto molto ristretta, stiamo parlando di 100.000 persone nel mondo, con 90.000, 100.000 persone in tutto il mondo, vi siano così e così preferenziali che permettono a grandi capitali, a grandissimi capitali, di non pagare un euro di tasse nel loro paese, anzi. Oltretutto ricordo anche che i paradisi fiscali, essendo oscuri, permettono anche una piccola cosa che si chiama riciclaggio del denaro sporco in molti casi, perché non c'è solo l'evasione fiscale del singolo, ma c'è anche, diciamo, la non tracciabilità di flussi di denaro. Ecco, se l'Europa è in difficoltà, se la crisi vale per tutte, vale per i dipendenti, per i disoccupati e quant'altro, non si capisce perché si debba continuare ad avere strutture di questo tipo, o meglio, lo si capisce perché poi spesso, come emerge da questa indagine, coinvolti sono personaggi che hanno anche ruoli di grandissima responsabilità in vari paesi, quindi potrebbero frenare sull'eliminazione dei paradisi fiscali. Ancora, per quello che riguarda invece la borsa, -0,30% Milano in questo momento, -0,80% Parigi, -0,80% Francoforte, -1,1% Londra, +0,20% il Dow Jones. La borsa ha girato dopo l'intervento di Mario Draghi, che sarà il nostro tema di apertura, perché Mario Draghi sostanzialmente ha raffreddato alcune attese. Ha detto: mentre la Bank of Japan ha varato un'azione di politica monetaria più aggressiva, stampando moneta, acquisterà titoli di Stato governativi e vuole arrivare a un'inflazione al 2% in due anni, e poi ha detto che potrebbe prendere anche altre misure, cioè vuole dare una scossa all'economia giapponese. Oggi con la Banca Centrale Europea ha avuto una lunga discussione sui tassi di interesse prima di decidere di lasciarli invariati, presa per consenso. Ha detto però che ci sono ancora scenari di rischio sull'economia europea. E poi sul fronte Cipro, io devo dire che Mario Draghi ha risposto anche al mitico Dijsselbloem, il presidente dell'Eurogruppo olandese, che a noi ci sta così simpatico, perché a suo tempo disse che il modello Cipro poteva essere applicato anche a altre banche in difficoltà in Europa, creando il panico. Draghi ha detto che la decisione iniziale su Cipro, quella del prelievo forzoso sui conti correnti anche sotto i 100.000 euro, non è stata una mossa intelligente. Non è stata una mossa intelligente, e ha detto che il salvataggio di Cipro non è un modello per l'Unione Europea. Dijsselbloem, abbiamo capito, vero? È il presidente della Banca Centrale Europea che parla, non un estemporaneo presidente dell'Eurogruppo come lei appare ogni tanto. Voi direte: mamma mia, che frasi forti su Dijsselbloem. No, anche perché vorrei farvi ascoltare, prima di partire con le notizie in breve, una cosa che arriva dalla Germania. Nel giorno in cui la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha lanciato un'indagine sulla Deutsche Bank, che avrebbe nascosto miliardi di dollari di perdite sui derivati durante la crisi, e lo scrive Financial Times, secondo l'accusa, o comunque il principio che ha portato la Bundesbank a investigare, addirittura sarebbero 12 miliardi di dollari le perdite nascoste dalla Deutsche Bank per evitare il salvataggio da parte del governo. Il comico tedesco, Harald Schmidt, sulla Bild TV ha ironizzato sulla situazione economica del nostro paese. E ve lo faccio sentire prima in tedesco, poi per chi non lo conoscesse, compreso sottoscritto, lo traduco. Und warum segnet uns Franziskus nur auf Italienisch? Richtig, er spricht die Sprache der Armen. Glielo facciamo anche noi un applauso adesso. Sapete cosa ha detto la battuta? Che bella battuta che ha fatto. Ha detto: come mai il pontefice ha fatto la benedizione di Pasqua in italiano? Perché l'italiano è la lingua dei poveri. Bellissima battuta, grazie. Meno male che ce l'hai, Schmidt. Voilà, notizie in breve. Vai. Ma sì, lo inviteremo in trasmissione, è un comico che fa così ridere. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Noi che pensavamo che l'italiano fosse la lingua dei poeti, dei latini, la lingua dell'arte, e invece scopriamo che è la lingua dei poveri. Attenzione, Schmidt, che la ruota gira. Vabbè, andiamo avanti sui titoli. Oggi Buzzi Unice -5%, ST Microelectronics -4%, Monte dei Paschi -3,70%, Prismia -3,40%, Luxottica -2,20%, Tenaris -2,20%, Saipem -1,60%, come il Banco Popolare. Bene, oggi Telecom Italia in netto recupero dopo il calo di ieri, +7,30%, la Popolare di Milano +5,60%, A2A +2,60%, Mediobanca +1,80%, Atlantia +0,80%. Volete sapere di Offshore Leaks, dello scandalo di oltre 2.000, 2,5 milioni di file di conti correnti analizzati. Coinvolge anche il presidente francese Hollande in maniera indiretta, perché ne è coinvolto un suo consigliere, Jean-Marc Ogier, uomo d'affari nel mondo dell'editoria e tesoriere di François Hollande durante la campagna elettorale. Si è scoperto che ha due società offshore alle isole Cayman, e questo arriva in Francia durante il pieno scandalo Chausac, cioè l'ex ministro del budget francese, che era in prima linea sull'evasione fiscale, durissimo sull'evasione fiscale. Poi si è scoperto che aveva un conto corrente non dichiarato in Svizzera presso UBS, dove avrebbe versato soldi per occultato soldi per non pagare tasse. Vedo che molti di voi invece sono d'accordo sulla battuta del comico tedesco, che è vero, siamo poveri. Sì, ok, un conto è dire che grazie a, scusatemi, però grazie al rigore fine a se stesso e l'austerità fine a se stessa che ha chiesto la Germania ci siamo impoveriti. Altra cosa che dire che il Papa parla in italiano per la benedizione pasquale, perché l'italiano è la lingua dei poveri. Dai, su. Comunque vi arriveremo dopo, perché di Germania e comunque di istituzione europea ha parlato Mario Draghi. Andiamo avanti invece con le notizie in breve dall'Italia. Prezzi sempre più giù per l'immobile, per il mattone, meno 4,6% i prezzi delle abitazioni acquistate nel quarto trimestre del 2012 rispetto al quarto trimestre del 2011, praticamente meno 4,6% e meno 1,5% rispetto al terzo trimestre del 2012. È il calo più forte di tutto il 2012, e sulla caduta dei prezzi pesano soprattutto le abitazioni già esistenti. Un dato che fa il paio in qualche modo, scusatemi, con la Confcommercio, che oggi segnala ancora un calo nelle spese per consumi, meno 3,6% a febbraio rispetto a febbraio 2012. La vicenda Monte dei Paschi, sanzioni per oltre 5 milioni di euro agli ex vertici del Monte dei Paschi, lo ha disposto, secondo quanto hanno riferito fonti finanziarie, la stessa Banca d'Italia, in relazione alle gravi violazioni nella gestione della banca. Per l'ex presidente Mussari e l'ex direttore generale Vigni la sanzione sarebbe superiore a 500.000 euro, mentre per l'ex capo della finanza Baldassarri la sanzione sarebbe di circa 400.000 euro. E ancora primi passi alla Camera dei Deputati per tagliare gli stipendi dei deputati stessi. Secondo quanto stabilito nell'ufficio di presidenza della Camera, giovedì prossimo infatti vi sarà una riunione informale per discutere del trattamento economico, e i questori avvieranno l'istruttoria ad hoc entro il 30 aprile. I debiti della pubblica, o meglio, i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Domani Radio 24 dedicherà un Radio Day, quindi nei principali GR vi saranno degli approfondimenti su questo e anche a Focus Economia. L'Italia ha chiesto oggi una valutazione alla Commissione Europea per capire una valutazione sul decreto sui debiti della pubblica amministrazione, e Bruxelles si riserva di fare l'analisi, considera positive le intenzioni del governo ma non è disposta a Bruxelles a firmare un assegno in bianco. E ha detto che la riduzione del debito è più importante del deficit. Di questo ha parlato anche Mario Draghi, il quale ha detto che la misura è una delle misure di stimolo più importanti che un paese possa avere, e restituire gli arretrati, che in alcuni casi valgono diversi punti di PIL. Il Consiglio dei Ministri potrebbe varare i decreti attuativi e comunque il decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione già nel weekend, sabato o al più tardi domenica. I ministri sono già stati preallertati e gli è stato chiesto di restare disponibili, reperibili, per il fine settimana. Il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ha detto che la cifra dei debiti della pubblica amministrazione è superiore a quanto certifica la Banca d'Italia in 90 miliardi e ammonterebbe, secondo la valutazione di Patuelli, a oltre 100 miliardi, mentre il presidente di Confindustria Squinzi, oggi interpellato dal nostro Vincenzo Miglietta a margine dell'inaugurazione di Luis and Labs, ha detto: beh, meglio che ci siano bloccati ieri, meglio che il Consiglio dei Ministri sia stato sospeso, perché il testo iniziale era un vero e proprio pateracchio. Il decreto, come era stato concepito nella prima stesura, era assolutamente insoddisfacente e quindi piuttosto che avere un pateracchio, meglio che si ritorni sopra e lo si faccia con calma. Ci è stato promesso che ci sarà una stesura per venerdì o al più tardi nel corso del fine settimana. Da questo punto di vista è una cosa positiva, anche se, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, abbiamo veramente bisogno di avere questi soldi il più presto possibile, perché le nostre imprese, dopo aver fornito lo Stato, la pubblica amministrazione con tanti servizi, prodotti eccetera, sono in sofferenza disperata e hanno bisogno di ricevere il pagamento delle loro prestazioni. Ma questo credo che lo stiano valutando. Mi auguro di no, perché se ci fosse un problema reale di copertura vorrebbe dire che la nostra pubblica amministrazione e il nostro Stato sono al default e non credo che sia questa la situazione. Ancora su questo poi torneremo, perché insomma domani avremo tutta la giornata dedicata con la voce di imprenditori. Ieri abbiamo ospitato uno, questa mattina 9 in punto aveva altri casi allucinanti. Ricordate quello di ieri, un imprenditore del Salernitano vantava 5 milioni di crediti su 25 milioni di fatturato. Ma come si fa a vivere così senza che uno li possa scalare dalle tasse e quindi dal famoso credito d'imposta? Adesso basta con le battute sul perché, sul tedesco, che lingua è, non ha senso abbassarsi allo stesso livello del comico tedesco. C'è sempre questa spocchia un po' a chi mi dice: beh, anche lei rideva della Grecia, prima o poi tocca a tutti. No, guardi, si sbaglia, noi della Grecia non abbiamo mai riso, abbiamo sempre detto che i greci avevano truccato i conti, ma che un conto era punire, un conto era umiliare. Secondo noi si è arrivati all'umiliazione nei confronti della Grecia, senza che poi questo abbia portato la Grecia a crescere e a uscire dal pantano. Per cui no, sulla Grecia abbiamo sempre avuto massimo rispetto. Bisogna avere massimo rispetto per la gente che soffre, non i poveri, la gente che soffre, perché poi queste politiche di austerità si scaricano sempre su chi è visibile: lavoratori dipendenti, pensionati, giovani che sono disoccupati, artigiani, fisco. Non si scaricano su quei centinaia di italiani, tedeschi, francesi, greci che hanno i conti offshore, di cui parleremo dopo, non vi preoccupate. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema, la riunione della Banca Centrale Europea, tasso di interesse invariato questa mattina allo 0,75%, decisione attesa dal mercato, anche se Mario Draghi ha detto: beh, abbiamo preso questa decisione dopo una lunga discussione sul livello appropriato dei tassi. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il tasso di inflazione è sceso ulteriormente nei mesi scorsi come previsto e le dinamiche sul fronte dei prezzi nel medio termine dovrebbero rimanere contenute. Le attese circa l'inflazione per l'area euro restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Allo stesso tempo, la debolezza dell'attività economica nell'area euro si è trascinata in questi primi mesi del 2013. Una graduale ripresa è attesa nella seconda metà dell'anno, ma è soggetta a rischi al ribasso. Alla luce di questo scenario, la nostra politica monetaria resterà accomodante per tutto il tempo necessario. Nelle prossime settimane monitoreremo da vicino tutte le informazioni e gli sviluppi dell'economia della zona euro e le conseguenze sulla stabilità dei prezzi. La discussione sui tassi è stata lunga e la decisione di lasciarli invariati è stata presa per consenso. Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, ma questa volta mi piace di Mario Draghi, che abbiamo criticato anche nel passato per alcune uscite, ma mi piace soprattutto il giudizio che ha dato sulla gestione di Cipro, un mito. Oh, perché sentissi dire dal presidente della Banca Centrale Europea che tu ti chiami Dijsselbloem o ti chiami Stefano Rossi, cambia poco. Il salvataggio di Cipro certo che non è un modello per l'Unione Europea, mancava solo che tirasse fuori la bacchetta e la desse sulle mani del presidente dell'Eurogruppo, che se n'era uscito appunto con quella frase così brillante: potremmo applicarlo come modello per altre banche in difficoltà, chiaramente non quelle olandesi e tedesche. E poi ha continuato Draghi: non solo il salvataggio di Cipro non è un modello per l'Unione Europea, ma la decisione iniziale non è stata una decisione, una mossa intelligente. Pure degli stupidi gli ha dato. On Cyprus, the ECB had presented a proposal where. Per quanto riguarda Cipro, la BCE aveva avanzato una proposta dove non era contemplato il meccanismo di autofinanziamento del salvataggio, il bail-in. E questa proposta era in linea con le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale e della Commissione. In seguito è cominciata una lunga negoziazione con le autorità cipriote e il risultato è stato quello che avete visto, cioè l'ipotesi di un prelievo forzoso sui conti bancari che coinvolgeva anche i depositi garantiti. Questa non è stata una cosa intelligente, per usare un eufemismo, e fortunatamente è stata corretta il giorno dopo. Cipro non è un modello per altri interventi simili. Sono assolutamente certo che il presidente dell'Eurogruppo sia stato frainteso. Infine, penso che sia urgente delineare le linee guida di un meccanismo europeo per la ristrutturazione e ricapitalizzazione del sistema bancario. Non ho niente da aggiungere se non ringraziare Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore a Francoforte. Buonasera Alessandro. Alessandro. Buonasera a voi. Eccoci. Allora, elementi. Il primo: perché i mercati hanno reagito in maniera così fredda dopo l'annuncio di Mario Draghi, che ha detto lasciamo i tassi invariati? Forse si aspettava una mossa più forte nel modello Bank of Japan Today. La banca giapponese ha detto che farà di tutto per risollevare l'economia e quindi comprerà titoli di Stato, cioè stamperà moneta, e non avrà nessuna esitazione per altre misure. Alessandro? Ma a volte le reazioni immediate dei mercati sono difficili da interpretare, anche perché alla vigilia tutti gli economisti di mercato interpellati, praticamente tutti, avevano detto che non si aspettavano un taglio dei tassi, quindi non so se erano stati galvanizzati dagli annunci di Tokyo, però trovo strano che se alla vigilia non si aspettavano niente, poi quando questo non taglia sono delusi. È una reazione un po' curiosa, anzi direi che Draghi più di altre volte ha dato qualche indicazione che sarebbe anche pronto a tagliare se le cose continueranno a peggiorare, cioè ha ammesso due cose: che la debolezza dell'economia della fine dell'anno scorso è continuata all'inizio di quest'anno, e anche se si aspetta che ci sia ancora una ripresa nella seconda metà dell'anno, ha anche riconosciuto che questa debolezza dell'economia si sta estendendo anche ai paesi fino adesso considerati forti dell'Eurozona, compresa la Germania. Quindi ha detto anche una frase che di solito Trichet usava per anticipare possibili mosse sui tassi, cioè faremo un monitoraggio molto da vicino dei dati che arriveranno nelle prossime settimane. Questo monitor very closely di solito significa che se effettivamente i dati andranno in direzione di un ulteriore indebolimento, la BCE, come ha detto Draghi, è pronta ad agire. A tagliare i tassi di nuovo? A tagliare i tassi, ed eventualmente, forse, ha detto Draghi, anche stiamo considerando a 360 gradi altre possibili misure, soprattutto per quello che riguarda il problema del credito che non arriva alle piccole imprese. Vorrei aggiungere una cosa che forse non è stata colta, perché Draghi non ha fatto un riferimento esplicito all'Italia, però ha detto la misura di stimolo più potente che potrebbe esserci in questo momento sarebbe che i governi pagassero gli arretrati che hanno con le imprese, che nel caso di alcuni paesi ammontano a diversi punti percentuali del PIL. Anche se non ha fatto lo spelling della parola Italia, mi sembra un riferimento abbastanza chiaro. No, lo citavamo all'inizio, è importantissimo, anche perché, ripeto, domani avremo un intero Radio Day di Radio 24 su questo. Il governo ha promesso che entro fine settimana arriverà il decreto, però è importante che il Presidente della Banca Centrale Europea ti dica è la misura di stimolo tra le più importanti che puoi prendere, pagare i tuoi fornitori e immettere un ammontare anche così alto di liquidità che comunque devi dare, non è che puoi non pagarli, in questo momento di recessione economica. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte. Dicevo, Alessandro, il mitico Mario Draghi, a me piace tantissimo, ha dato una bacchettata a Dijsselbloem. Io non posso nascondere il mio godimento in questo momento, sono di parte, dicendo, insomma, il salvataggio di Cipro non è, sono certo che non è un modello per l'Unione Europea. E poi la decisione iniziale su Cipro non è stata intelligente. Dijsselbloem, lo ricordo per l'ennesima volta, il presidente dell'Eurogruppo, che disse 2 settimane fa il modello di Cipro potrebbe essere usato anche per altre banche europee. Un'operazione boomerang non da poco. Alessandro. Beh, se vogliamo ha detto anche un'altra cosa, ha detto che lo stesso ministro olandese pochi giorni prima di quella figuraccia che ha fatto su Cipro aveva salvato una banca in Olanda con i soldi dei contribuenti, e Draghi ha detto beh, forse anche quello non è un modello per il resto. C'è una banca molto chiacchierata, tra l'altro, una banca molto chiacchierata. Un'altra cosa, io credo, e cioè che Draghi ha partecipato anche lui a questo lungo negoziato, forse quando quest'idea bislacca di tassare tutti i contribuenti, tutti i depositanti bancari di Cipro, compresi quelli che nel conto hanno 50 euro, forse lì avrebbe potuto battere i pugni sul tavolo, sì, lui o il Fondo Monetario o la Commissione Europea, che come ha detto Draghi erano tutti contrari a questo piano, quindi sembra strano che sia stato lasciato andare così per la sua strada, quando poi si è dovuto intervenire successivamente dopo la bocciatura da parte del Parlamento greco, ma diciamo quando il danno in termini di credibilità era poi stato fatto. Hai assolutamente ragione, nel senso che noi amiamo Draghi, ma non gli risparmiamo critiche. In effetti uno potrebbe chiedergli, mi scusi Presidente Draghi, ma lei dov'era, visto che l'avete preso assieme al Fondo Monetario, assieme alla Commissione Europea e alla Banca Centrale Europea la decisione su questo piano? Potevate mettervi di mezzo, fare moral suasion, quant'altro. È un'obiezione assolutamente legittima. Visto che sono però in collegamento con te, vorrei spostarmi su un altro fronte, che in realtà poi è un fronte che affronteremo, scusate gioco di parole, nella seconda ora del programma. Mi riferisco a varie indagini sulle banche. Nel caso specifico, però, qui parliamo della Deutsche Bank, perché la banca centrale tedesca, la Bundesbank, ha lanciato un'indagine sulla Deutsche Bank che avrebbe nascosto miliardi di perdite su investimenti su prodotti derivati, quindi a alto rischio, durante la crisi. Avrebbe nascosto 12 miliardi di perdite per evitare il salvataggio da parte del governo tedesco. La Deutsche Bank nega le accuse, sono vecchie 2 anni e mezzo, ma come mai emerge adesso, Alessandro? Beh, pezzo della storia viene da tre ex funzionari della banca che o erano stati licenziati o se ne erano andati di loro spontanea volontà e che avevano appunto denunciato questo fatto che nel periodo della più acuto della crisi finanziaria globale, cioè fra il 2008 e il 2009, la Deutsche Bank aveva dei prodotti derivati dei quali non aveva calcolato accuratamente, messo a bilancio accuratamente il rischio, e questo, dicono questi tre ex funzionari, per coprire delle potenziali attenzione, perdite fino a 12 miliardi di dollari, quindi non uno scherzo. Questa notizia di ieri è in sostanza una ripresa, perché sulla base delle accuse di questi tre ex funzionari alla fine dell'anno scorso la Securities and Exchange Commission, che è la SEC, l'organo di controllo dei mercati negli Stati Uniti, aveva aperto una prima indagine. Adesso però questa questione delle banche, della regolamentazione, sta diventando una patata bollente anche della campagna elettorale tedesca. Come sapete, in Germania si vota a settembre e il candidato cancelliere del Partito Socialdemocratico, cioè il rivale di Angela Merkel, Peer Steinbrück, ha fatto un po' di questa campagna contro le banche, o comunque contro una regolamentazione eccessivamente rilassata delle banche, uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale. Quindi a questo punto credo che sia stato un po' un atto dovuto da parte della Bundesbank il fatto che c'era un'indagine negli Stati Uniti. Era impensabile che diciamo il regolatore, l'organo di vigilanza del paese nel quale ha sede questa grande banca non facesse nulla, e quindi la Bundesbank a sua volta ha avviato un'indagine. Vedremo come si intrecciano le due indagini, quella americana e quella tedesca. Le accuse sono molto gravi. La Deutsche Bank, come hai ricordato, dice che loro hanno già fatto un'indagine interna, che non è risultato niente, che comunque tutte queste posizioni sono già state chiuse o liquidate, che si tratta di una vicenda vecchia, che comunque questi tre non erano in nessun modo coinvolti in questo tipo di derivati, per cui, a detta della Deutsche Bank, parlano per sentito dire. Comunque insomma una vicenda aperta, la quale credo che risentiremo parlare, proprio perché a questo punto è diventato anche un tema di campagna elettorale, di scontro politico, questa vicenda della regolamentazione delle banche. Hai fatto bene a ricordarlo, anche in Germania ci sono le elezioni a settembre. Chissà se tempo delle elezioni tedesche avremo noi un governo, e non voglio echeggiare Matteo Renzi di questi giorni, però insomma cerchiamo di averlo entro settembre. Grazie Alessandro Melli. In collegamento con noi da Francoforte, nei vari interventi di Mario Draghi oggi in conferenza stampa, ricorderete che a inizio mese gli appuntamenti sono due della Banca Centrale Europea, ma la conferenza stampa, quindi le dichiarazioni e le risposte ai giornalisti, arrivano solo a inizio mese. Dicevo, a Mario Draghi è stato anche chiesto da parte dei giornalisti italiani di commentare la telefonata con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ricorderete che la settimana scorsa, dopo la rinuncia di Bersani, insomma, la telefonata di Mario Draghi ha avuto un certo peso, anche se non sappiamo esattamente cosa si sono detti. Insomma, vediamo se ci ha aiutato Draghi con questa risposta. I wouldn't comment on Italy, and I got a call and I responded. That's what you do, that's what usually humans do. When they receive phone calls, they respond to them. Ha detto Draghi, ma semplicemente non commento la telefonata. Quello che fanno gli esseri umani quando squilla il telefono, rispondono, e io ho risposto. Anche perché era Presidente della Repubblica. Diciamo, le persone educate quando ricevono una telefonata rispondono, non tutte. Vabbè, ci spostiamo verso i mercati finanziari, poi andremo a parlare degli scandali, degli sprechi di casa nostra, e poi dei conti di un centinaio di migliaia di persone nel mondo che hanno nei depositi offshore, nei paradisi fiscali, 21.000 miliardi di dollari. 21.000 miliardi di dollari. Meno 0,30% Milano, meno 0,77% Parigi, meno 0,70% anche Francoforte, meno 1% Londra, più 0,13% l'America. Music. Molto bene Telecom Italia, più 7,80, la Popolare di Milano più 6,20, A2A più 3%, Mediobanca più 2, Autogrill più 0,90 come Atlantia. Molto male Buzzi, Unice meno 5,5, ST Microelectronics meno 4, Prismia meno 3,5, Monte dei Paschi meno 2,80, Luxottica meno 2,3, Tenaris meno 2,1. E poi Banco Popolare meno 1,70 come Mediaset e Parmalat. Tentativi di mixaggio in diretta tra musica e mercati finanziari. Andiamo avanti, ringrazio il tecnico perché così. Fiat Industrial meno 1,60, Mediolanum meno 1,40, Saipem meno 1,30, Fiat meno 1%. Me la sto cavando? Sì. Tra chi è andato bene invece anche Snam più 0,50, Salvatore Ferragamo più 0,50 anch'essa e Diasorin più 0,36. Migliori e peggiori in assoluto, Alcatel Lucent più 8,13, Telecom appunto più 7,80, sull'ordinaria Arena più 7,30 e Telecom Italia Risparmio più 7,23. Il peggior titolo Moleskine meno 7,60, debuttante, e poi Aeroporto di Firenze meno 6,40, Meridie meno 5,60, Rizzoli Corriere della Sera meno 5,40. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Com'è andata la mia DJ di borsa, va bene? Ah sì, scusami, sì sì. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancaner, Telecom da una parte, che ha recuperato, ieri è sceso ai minimi dal 1997, e invece Moleskine dall'altra. Poi andiamo ai titoli anche più spessi oltre Moleskine. Sì, allora diciamo che oggi Telecom stava comunque recuperando terreno dopo i minimi storici toccati alla vigilia, come dicevi tu, però sul finale di seduta è balzata improvvisamente dell'8%, entrando anche in assa di volatilità. Ricordiamo che in questi giorni sono tornate le indiscrezioni su una possibile fusione con Tre Italia in attesa del consiglio di amministrazione che si terrà il prossimo 11 aprile, quindi comunque i riflettori restano puntati sulla società in attesa di novità anche dopo le discussioni e le critiche sulla gestione. Moleskine ha perso il 7,6%, ieri nel giorno del debutto aveva chiuso invariata, il titolo tratta ora 2,106 euro, ricordiamo che si era quotata a 2,3 euro, quindi si tratta di un calo superiore all'8%, quindi dell'8,4%, ricordiamo che la società è stata quotata con una valorizzazione che viene utilizzata solitamente per i marchi del lusso, quindi probabilmente il mercato si sta interrogando sul valore. Riposizionando. Adesso andiamo anche sui titoli bancari a due velocità oggi, perché appunto la Popolare di Milano più 6,20 e Mediobanca più 1,90, quasi 2%, mentre Monte dei Paschi ha perso il 2,80 e, come raccontavamo, il Banco Popolare meno 1,70. E ancora Ubibanca meno 0,50%. Due risposte velocissime, vabbè, a parte che c'è uno che dice che sono un pagliaccio e un altro che dice che se volevamo ascoltare, a parte che se avessimo voluto ascoltare la musica dei Go Go Doos accendevamo un'altra radio. Ma guardi, lo faccio pure perché erano gli ARC e non i Go Go Doos, altro non so. Dopodiché, ragazzi, 10 anni di mercati finanziari, anche se mettiamo una base ogni tanto. Vabbè, Livia Zancaner, con tono molto serioso e quasi da litania, raccontami che cosa è successo oggi alle banche. Certo, allora, in mattinata il più seria. In mattinata il comparto bancario recuperava dopo i cali della vigilia a Milano, hanno iniziato invece a trattare a due velocità le banche, circa intorno alla a metà seduta, quindi MPS, come dicevi tu, chiuso in calo del 2,8%, ricordiamo che oggi sono ripartite le vendite allo scoperto dopo lo stop di 2 giorni deciso dalla Consob, ma oggi vi è stata anche un'altra notizia, cioè che sarebbe in arrivo dalla Banca d'Italia una multa per gli ex vertici da complessivi 5 milioni di euro. Per quanto riguarda BPM ha chiuso in rialzo, ha segnato più 6,23%, oggi il consiglio di gestione approva il bilancio, ma ricordiamo che la banca è una delle preferite degli analisti perché la trasformazione in società per azioni consentirà, secondo appunto il mercato, un'espansione dei multipli dell'istituto. E questo per quello che riguarda il mondo bancario. Ho visto Ansaldo oggi muoversi in maniera molto strana, no? Diversa, andava bene, poi è scesa. Che è successo? Sì, allora diciamo che Ansaldo aveva guadagnato molto la scorsa settimana, sì. Stamattina andava bene, ha chiuso poi sulla parità, ricordiamo che le borse comunque hanno cambiato direzione perché stamattina guadagnavano oltre l'1%, hanno poi chiuso in territorio negativo per Ansaldo. Questa mattina c'è stata una notizia, nel senso che la società si è aggiudicata un contratto in Marocco da 120 milioni di euro per la prima linea ad alta velocità. Ancora risanamento, citavo prima l'andamento del titolo, più 4,60, qui in realtà ci sono voci di un delisting, cioè di una raccolta, rastrellamento di azioni per poi togliere il titolo dalla borsa. Sì, assolutamente sì, oggi infatti vi sono state delle indiscrezioni stampa sul possibile delisting della società e secondo queste voci appunto Luigi Zunino, che detiene il 24% del gruppo, ricordiamo, tramite le sue società in liquidazione, avrebbe manifestato l'intenzione di chiudere la ristrutturazione del gruppo riacquisendo proprio la società che verrebbe poi tolta dal listino milanese. L'espansione dei multipli, ci chiedono gli ascoltatori, immagino ti riferissi all'espansione dei multipli di bilancio, no? Sì, diciamo un miglioramento della redditività, dei coefficienti, comunque certo. Sì, di bilancio. Ancora tra chi è andata male Banca Generali meno 5%, tra chi è andata bene invece Edes più 4% e Gemina sul risparmio non convertibili più 2,91%. Ho dimenticato qualcosa? Ah sì, Generali, Banca Generali mi incuriosiva. Livia. Sì, allora come dicevi tu Banca Generali ha chiuso in netto calo, mentre Generali ha segnato un calo dello 0,41%. Allora ricordiamo che Generali ha collocato il 12% della controllata, Banca Generali di cui detiene comunque ancora la maggioranza, l'ha collocato a 13,55 euro con prezzo inferiore alla chiusura di ieri a 14,59 euro, quindi probabilmente il mercato per questo motivo ha penalizzato il titolo della controllata, quindi di Banca Generali. Ricordiamo che con l'operazione Generali ha realizzato una plusvalenza di circa 143 milioni di euro. Grazie Livia Zancaner, grazie per la serietà che hai dimostrato riportando il programma nella sua ortodossia. Grazie e un saluto ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Grazie anche a voi. Allora, Barisoni, lei molto simpaticamente, secondo me, sta andando fuori di testa, in senso buono. Non so quali modi buoni ci siano per andare fuori di testa, però le rispondo, ci provi lei a raccontare 4 anni di sfighe tutti i giorni, qua non si muove niente, dalla crisi finanziaria a quella poi diventa economica, poi diventa occupazionale, poi diventa dei consumi, poi diventa l'attacco all'euro, poi diventa dei debiti sovrani, poi delle banche. Conosce questa canzone, sa che dice ci vuole fool to remain sane, un pazzo per restare sani. Forse ha ragione lei, forse sto uscendo di testa. Allora parliamo di una cosa positiva invece, prima di chiudere. Quanto ho ancora? 2 minuti, 1 minuto, 1 minuto e 30, 1 minuto e 20? No, non ce la faccio, uno scarso. E allora ne parliamo dopo il GR, perché oggi la LUISS ha lanciato una fabbrica, l'Università LUISS di Roma, di start-up a livello nazionale e internazionale. È un modo come un altro per accogliere virtuosismi, accogliere anche le start-up, sono le aziende che nascono, le neonate. Ne parliamo dopo il GR, così come parleremo anche di una cosa che rende degno questo paese, no? Non si riescono a tagliare le spese dei consiglieri, raccontiamo sprechi ogni giorno, però pensate un po', la spending review del governo ha dimezzato le sovvenzioni agli studi per i figli delle vittime dei servitori di questo paese. Una vergogna. Adesso mi arrabbio veramente, altro che fool o pazzo. Di tutto quello che si poteva tagliare, stanno ancora discutendo sui tagli Camera e Senato, però subito tagliati i fondi, le borse di studio per i figli orfani di servitori dello Stato. Vergognatevi. Minuti, riprende la seconda parte di Focus Economia. Come ricordavo prima del GR, c'è un'iniziativa positiva, le troviamo a fatica, ma le troviamo, oggi lanciata dalla LUIS, dall'Università LUIS di Roma. Perché? Perché ha lanciato LUIS and Labs, è una fabbrica delle start-up a livello nazionale e anche internazionale. Sostanzialmente è una joint venture tra l'università e un incubatore di imprese in collaborazione con Wind, e dovrebbe essere un luogo anche fisico per i giovani con l'idea di lanciare una nuova idea, una nuova impresa o società, aperta quindi agli studenti della LUIS ma anche quelli provenienti da altre facoltà e università italiane, con particolare attenzione per chi arriva da facoltà come medicina, ingegneria, fisica, matematica, informatica e biologia. 1500 metri quadrati di spazio, 120 postazioni di lavoro, dove si calcola che almeno inizialmente 50 start-up, cioè nuove imprese, potranno avviare le loro attività. La sede è nella stazione Termini di Roma, nell'area amazzoniana, e ha commentato l'obiettivo la presidente della LUIS, Emma Marcegaglia. Noi oggi qui penso che accendiamo una luce, diamo una speranza, magari piccola, ma insomma facciamo una cosa concreta per dare un contributo serio ai problemi del paese. Io credo che noi, con la nascita proprio di LUIS and Labs, cerchiamo di dare una risposta concreta ai tre problemi principali dal punto di vista economico che questo paese ha. Il primo, il fatto che le imprese, da quando è nata questa crisi, cioè dal 2008, stanno morendo, stanno chiudendo. Lo diceva prima il presidente Squinzi, noi non abbiamo poche nuove aziende che nascono, abbiamo tante aziende che stanno morendo, stanno chiudendo, quindi questo è un primo problema molto grave. Il secondo problema è il problema di cui si parla sempre senza dare poi risposte concrete, questo problema di un tasso di disoccupazione giovanile ormai vicino al 40%, qui stiamo sacrificando appunto un'intera generazione. E il terzo problema è che in questo paese si fa non a sufficienza ricerca e innovazione. Ecco, io penso che aiutare la nascita di start-up attraverso questo incubatore, questo facilitatore, ci permette, in piccolo ovviamente, però di dare una risposta concreta proprio a questi tre problemi. Perché far nascere imprese vuol dire, come dire, creare benessere, creare ricchezza, creare occupazione e diffonderlo. Facendo quello che facciamo, appunto, noi diamo una risposta al problema della disoccupazione. Il messaggio anche culturale che noi vogliamo dare ai giovani, ma non c'è bisogno che lo diamo noi, perché la ricchezza delle persone che ci sono qui, l'entusiasmo che c'è, lo dice da solo. Noi diciamo ai ragazzi: non solo cercate un posto di lavoro, ma createvi un posto di lavoro. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blue. Sì, torna al nostro appuntamento in una fascia oraria un po' diversa, di solito lo mettiamo in apertura del programma, perché mentre cerchiamo di raccontare anche iniziative virtuose come quella della LUISS, continuiamo purtroppo a dover raccontare così, pratiche viziose, per essere buoni. Non parlo solo dei prototipi per l'avvistamento dei daini o degli avvistatori di neve o degli istruttori di sci da fondo sull'Etna. Ieri abbiamo raccontato ai camminatori alla Regione Sicilia, ieri abbiamo raccontato anche di quali rimborsi spese 10 consiglieri della Regione Calabria si fossero fatti pagare dal gratta e vinci al tergicristallo, ai detersivi, al caffè, oltre ovviamente iPhone, iPad, viaggi, ristoranti e quant'altro. Ed ecco perché mi innervosisco, perché in un paese così, da un lato spero che sia stato solo uno slittamento, lo dico col massimo rispetto, perché l'annuncio che la giunta regionale, che la nuova giunta regionale in Lombardia avrebbe dovuto approvare una proposta di legge sul taglio dei costi della politica, le decisioni vere sono state per ora rimandate. La giunta ha solo deciso l'istituzione di un tavolo con rappresentanti dell'esecutivo e del consiglio regionale per capire come e dove applicare i tagli. Qualche idea gliela diamo anche noi con questa rubrica ogni giorno, però. La Lombardia deve recepire entro luglio comunque il decreto Monti sulla spending review, pena il taglio dell'80% dei trasferimenti statali ad eccezione di sanità e trasporto pubblico. Tre sono i parametri stabiliti dalla conferenza Stato-Regioni su cui dovranno lavorare i partecipanti al tavolo: gli emolumenti, quindi gli stipendi del presidente della regione e del consiglio regionale. La regione più virtuosa da prendere come modello in Italia è l'Umbria. Gli emolumenti e quindi gli stipendi dei consiglieri, la regione più virtuosa è l'Emilia-Romagna, e il finanziamento alle spese dei gruppi consiliari, e qui la regione più virtuosa è l'Abruzzo. Se venissero prese come riferimento le regioni più virtuose, il neopresidente Roberto Maroni della regione Lombardia e Raffaele Cattaneo, presidente del consiglio regionale Lombardia, non potranno più prendere 13.800 euro lordi mensili, tutto compreso, e anche i consiglieri non potranno prendere più di 13.800 euro lordi, che sono circa 7.400 euro netti, e i consiglieri regionali non potranno percepire più di 11.000 euro lordi, quindi circa 6.200 euro netti. Però la partita si gioca soprattutto sulle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari, quelle rese celebri, diciamo così, dal mitico Batman fiorito del Consiglio regionale del Lazio. Il decreto infatti fissa in 5.000 euro annui per consigliere la spesa possibile, e quella per il personale dei gruppi dovrebbe passare dai 6 milioni e mezzo attuali a 4 milioni di euro, tutto compreso. Ecco, mentre si cerca di capire, si prende tempo, è iniziato anche a livello parlamentare l'analisi dei possibili tagli della politica, dei costi della politica, e noi continuiamo a raccontare di sprechi ogni giorno. Ripeto, mi fa rabbrividire, anzi penso che sia una vergogna vera e propria, che all'interno della spending review, quindi dei tagli alla spesa pubblica, fatti così non servono a niente in maniera indiscriminata, vai a colpire i virtuosi e avvantaggi gli spreconi o i ladri. Comunque, nella spending review del governo sono state tagliate del 50% tutte le borse di studio per i figli di persone rimaste orfane, per i figli di persone cadute per il dovere o rimaste invalidi mentre svolgevano i loro compiti istituzionali. Lo ha segnalato l'associazione Vittime del Dovere, che ha inviato una lettera aperta al capo dello Stato. Con grande sorpresa, si scrive nella lettera, abbiamo appreso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dimezzato gli importi delle borse di studio che tradizionalmente vengono elargite a favore dei figli delle vittime del dovere. Ricordiamo che il diritto allo studio è quanto di più prezioso resta a chi ha perso un genitore in nome della patria. Ma io dico, ma bisogna arrivare a questi livelli? A parte che vorrei sapere quanto risparmia con gli sprechi che ha lo Stato italiano nel dimezzare le borse di studio di orfani, di servitori dello Stato. Ma comunque fa schifo, comunque è una vergogna, comunque quinto potere, comunque. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. No, lo dico mentre Barack Obama si è tagliato del 5%, non di tanto, il suo stipendio da $400,000 lordi in segno di solidarietà con i dipendenti federali e come risposta anche ai tagli da $85 miliardi che colpiranno i programmi federali. Il presidente Obama ha restituito infatti $20,000 al tesoro americano, seguendo il segretario della difesa Chuck Hagel, che ha rinunciato a 14 giorni di stipendio per non essere da meno rispetto ai 750.000 impiegati civili del dipartimento che dirige, quindi del Ministero della Difesa, che nei prossimi mesi dovranno restare a casa un giorno alla settimana per 14 settimane. Ecco perché forse in America l'antipolitica monta meno, perché non aspettano che arrivi le manifestazioni di piazza per tagliarsi lo stipendio. Abbiate pazienza. E poi a me piace molto la sfida che hanno lanciato i britannici, sempre molto pragmatici. L'hanno lanciata al ministro del welfare, Ian Duncan Smith, che ha appena fatto una riforma del welfare con il più profondo, diciamo, cambiamento del sistema di welfare e quindi dello stato sociale britannico da quando la Gran Bretagna lo inventò negli anni 40. I cittadini non ci stanno e hanno rilanciato una sfida. Ci provi lui, il ministro, a vivere con le 53 sterline, sono circa 60 euro, alla settimana previste per il sussidio di disoccupazione. Questa petizione ha già raccolto 370.000 firme. Devo dire che alla domanda di un ascoltatore alla BBC che ha chiesto al ministro: ma lei potrebbe vivere con 53 sterline alla settimana? Il ministro ha risposto: beh, se devo sì. Anch'io sono rimasto disoccupato a 20 anni. Chi invece non ha questi problemi sono circa 100.000 persone a livello mondiale che detengono in paradisi fiscali offshore qualcosa come $21 miliardi. Praticamente su $21 miliardi si calcola che un terzo, quindi $7 miliardi, appartengono a 90.000 persone, lo 0,01% più ricco del mondo. Già il rapporto Tax Justice Network stimò l'anno scorso che grandi banche d'affari erano coinvolte nell'occultare questi patrimoni. Scrisse che UBS ha occultato nel 2010 $1.350 miliardi in paradisi fiscali, Credit Suisse $470 miliardi, Goldman Sachs $166 miliardi. Adesso però si passa dal rapporto, dall'analisi, allo scandalo vero e proprio. Si chiama infatti Offshore Leaks, come si chiamò Vatican Leaks, la fuga di documenti sul Vaticano, e WikiLeaks, quelli sul Pentagono americano. Perché? Perché 86 giornalisti di 37 stati al mondo, americane e europee, stanno lavorando su qualcosa come 2 milioni e mezzo di files che rivelerebbero i conti segreti, le transazioni nascoste nei forzieri dei grandi ricchi, dei super ricchi a livello mondiale. Fonti giornalistiche francesi lo hanno definito uno scandalo fiscale planetario e coinvolta anche l'Italia. Nel database vi sarebbero circa 200 italiani. Si sono fatti i nomi delle agenzie e dal settimanale Espresso di Gaetano Terrin, all'epoca commercialista dello studio Tremonti, di Fabio Ghioni, hacker dello scandalo Telecom, dei commercialisti milanesi Oreste e Carlo Severgnini. Ma, ripeto, a livello mondiale si tratta di 100.000 persone, non solo miliardari, anche funzionari governativi, familiari di Azerbaigian, Russia, Canada, Pakistan, Filippine, Thailandia, Canada, Mongolia, Stati Uniti e Francia. Perché parte, o meglio, in Francia deflagra questa inchiesta? Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lì c'è da un lato il coinvolgimento anche di un uomo d'affari, Jean-Marc Ogier, che è molto vicino, era il tesoriere di François Hollande, del presidente, durante la campagna elettorale, e c'era già stato lo scandalo che non c'entrava nulla con questa vicenda di Jérôme Chauzac. Ma in Francia abbiamo visto i colleghi francesi dire: questo è uno scandalo planetario, fiscale planetario. Marco? Beh, sì, nel senso che cioè il frutto del lavoro condotto per 15 mesi dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, che è un'associazione che ha sede negli Stati Uniti, ma al quale fanno capo 36 giornali di tutto il mondo, hanno spulciato circa 2 milioni e mezzo di dati relativi a società con sede in una lunga serie di paradisi fiscali, e adesso stanno pian piano lavorando per cercare di far emergere da questa enorme mole di dati grezzi i nomi delle persone fisiche che hanno in qualche modo a che fare con questo sistema di evasione fiscale, di occultamento patrimoniale. Ecco, su questo tu ricordavi appunto che l'attività, una cosa un po' strana, ma viene svolta da un gruppo di giornalisti che si riuniscono appunto sotto l'International Consortium of Investigative Journalists, 86 giornalisti di varie testate americane e europee. È chiaro, Marco, che la domanda è, diciamo, si fermerà a Jean-Marc Ogier, o qui, da quello che tu capisci, in Francia veramente si rischia lo tsunami, come sostengono questi giornalisti, cioè che poi che siano 200 in Italia o siano 1000 in Francia, poco importa, ci sarebbero nomi eccellenti dentro questa inchiesta. Ma dunque, la lista francese sarebbe di 130 nomi. A meno dei nostri. In realtà, dalle informazioni che per ora pubblica Le Monde, che è appunto uno dei 36 giornali che fanno parte del consorzio, non ci sarebbero molti altri nomi particolarmente noti. Si parla del coinvolgimento di due grandi banche, BNP Paribas e Crédit Agricole, che avrebbero aiutato alcuni clienti a organizzare delle società offshore attraverso le loro filiali svizzere e asiatiche, e del proprietario di una catena di negozi di abbigliamento che si chiama Celio. Il nome per il momento che emerge dal lavoro dei colleghi di Le Monde è appunto quello di Jean-Jacques Ogier, il quale ha fatto, come hai ricordato, è stato il tesoriere della campagna elettorale di François Hollande. In realtà non c'è nulla di illegale in tutto questo, attenzione. No, hai ragione, nel senso che non stiamo parlando, cioè nessuno di queste persone apparentemente ha commesso alcun illecito, compreso Jean-Jacques Ogier, il quale per realizzare una serie di partenariati con dei soci cinesi ha dovuto in qualche modo, stando alla sua versione dei fatti, accogliere le richieste dei soci cinesi e aprire due società nelle isole Cayman. Queste società, però, queste partecipazioni in queste due società sono regolarmente dichiarate nel bilancio della holding di Ogier, e come dire non c'è nulla di almeno per il momento, cioè, vuol dire non c'è nulla di illegale nel fatto di avere una partecipazione in una società che ha sede nelle isole Cayman, cioè non c'è nessuna legge lo vieta. No. Un conto è l'illegalità, un conto è l'opportunità, perché è chiaro che se tu chiedi a un paese sacrifici non è il massimo della vita, ma di illegale hai ragione, non c'è nulla, così come l'attività svolta dalle grandi banche d'affari è un'attività che tutti conosciamo, cioè, no? Esatto. Non è che lo scopriamo adesso. Marco, un po' il fatto di aver scoperto l'acqua calda. Sì, però l'acqua calda si scopre in alcune situazioni, cioè sono d'accordo con te, però mala tempora, no? Perché in questo periodo di PIL fermo se non in recessione, di consumatori che consumano sempre di meno, di ipotesi su Cipro, ipotesi cipriote applicate alle banche e ai correntisti europei, poi ti viene a scoprire che c'è uno 0,01% che non paga le tasse nel tuo paese, mentre poi invece il giro di vita fiscale per tutti noi comuni mortali è molto forte, è chiaro che in questo momento fa più notizia. Ti chiedo una cosa, visto che Hollande è precipitato ai minimi storici quanto a popolarità, tra l'altro prima che scoppiasse lo scandalo su Jérôme Chauzac, tu pensi che questo poi potrà dare un'ulteriore mazzata al consenso politico, allo scarso consenso politico di Hollande? Beh sì, su questo non c'è alcun dubbio. È chiaro che l'impatto politico dell'immagine del presidente è ulteriormente aggravato da queste informazioni. Su questo non c'è alcun dubbio, soprattutto perché appunto questa notizia di oggi arriva dopo lo shock della vicenda appunto delle menzogne dell'ex ministro del bilancio Caisac a proposito dei conti che possedeva prima in Svizzera e poi, poi a Singapore. Quindi è ovvio che dal punto di vista dell'opinione pubblica la reazione è: sono tutti dei ladri, tutti evadono le tasse, è una classe dirigente nella quale non è possibile avere fiducia. Ma questo, di chi stai parlando? Della Francia o dell'Italia? Non ho capito. Scusami? Parlavi della Francia o dell'Italia? No, parlo della Francia. Ah, no, mi ero confuso per un secondo. Parlo della Francia, anche se l'impatto è uguale ovunque. Cioè è evidente che nel momento, se vuoi, a maggior ragione in Italia, dopo il risultato elettorale, con il grande successo di Grillo e Movimento 5 Stelle, è evidente che queste informazioni non fanno che aumentare, certo, la sfiducia della popolazione nei confronti della sua classe dirigente, non c'è alcun dubbio. Mi limito solo a dire che bisogna cercare, almeno per quanto ci riguarda, di fare dell'informazione corretta e di separare in qualche modo il grano dall'olio, e cioè i paradisi fiscali esistono, ed è del tutto evidente che ci siano, che ci sono delle persone, delle società che vanno a collocare delle società nei paradisi fiscali. Allora, d'accordissimo con te Marco, mi piace molto separare il grano dall'olio, perché questo parliamo di grano, infatti, e l'olio, olio di ricino, è quello che invece ingurgitiamo noi, se mi passi la battuta, ma sono d'accordo con te. Un conto è capire il momento politico e il danno anche politico di consenso che queste inchieste fanno, altra cosa è dire che si tratti di fondi neri, fondi legali. Così non è, attenzione, così non è. Altra cosa è l'opportunità politica. Oppure potremmo prenderla, come dice un ascoltatore, ma insomma, se è tutto legale, qual è il problema? Potremmo stare anche allegri su questo e chiudere questo collegamento, questa puntata, con un ricordo che ancora non abbiamo fatto, è quello di Enzo Iannacci. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri. Grazie a Marco Mussanè in collegamento con noi da Parigi, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo con Focus Economia domani dalle 17 in poi. Diventan tristi se noi piangiamo. Radio 24. La passione si sente.